Ad alta voce. Paolo Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il castello dell'innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giocaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile, un pendio piuttosto erto, ma uguale e continuato, a prati in alto, nelle falde a campi sparsi qua e là di casucce. Il fondo è un letto di ciottoloni dove scorre un rigagnolo o torrentaccio secondo la stagione. Allora serviva di confine ai due stati. I giochi opposti che formano, per dir così, l'altra parete della valle hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge e macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e suciglioni. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che a gomiti e a giravolte saliva al terribile domicilio si spiegava davanti a chi guardasse di lassù come un nastro serpeggiante. Dalle finestre e dalle feritoie poteva il signore contare a suo bell'agio i passi di chi veniva e spianargli l'arme contro 100 volte, e anche d'una grossa compagnia avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi prima che uno arrivasse a toccar la cima. Del resto, non che lassù, ma neppur nella valle e neppur di passaggio, non ardiva metter piede nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello. Il birro poi che vi si fosse lasciato vedere sarebbe stato trattato come una spia nemica che venga colta in un accampamento. Si raccontavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentar l'impresa, ma erano già storie antiche e nessuno dei giovani si rammentava d'aver veduto nella valle uno di quella razza, né vivo né morto. Tale è la descrizione che l'anonimo fa del luogo, del nome nulla. Anzi, per non metterci sulla strada di scoprirlo, non dice niente del viaggio di Don Rodrigo e lo porta addirittura nel mezzo della valle, a piè del poggio, all'imboccatura dell'erto e tortuoso sentiero. Lì c'era una taverna che si sarebbe anche potuta chiamare un corpo di guardia. Su una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio era dipinto da tutte e due le parti un sole raggiante, ma la voce pubblica, che talvolta ripete i nomi come le vengono insegnati, talvolta li rifà a modo suo, non chiamava quella taverna che col nome della Malanotte. Al rumore d'una cavalcatura che s'avvicinava, comparve sulla soglia un ragazzaccio armato come un saracino e, data un'occhiata, entrò ad informare tre sgherri che stavano giocando con certe carte sudice piegate in forma di tegoli. Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacciò all'uscio e, riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutò rispettosamente. «Don Rodrigo», resogli con molto garbo il saluto, domandò se il signore si trovasse al castello e, rispostogli da quel caporalaccio che credeva di sì, smontò da cavallo e buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito. Si levò lo schioppo e lo consegnò al montanarolo, come per sgravarsi d'un peso inutile e salir più lesto, ma in realtà perché sapeva bene che su quell'erta non era permesso d'andar con lo schioppo. Si cavò poi di tasca alcune berlinghe e le diede al Tanabuso, dicendogli: «Voi altri state ad aspettarmi e intanto starete un po' allegri con questa brava gente». Cavò finalmente alcuni scudi d'oro e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente, col griso che aveva anche lui posato lo schioppo, cominciò a piedi la salita. Intanto i tre bravi soprandetti e lo squinternotto, che era il quarto. Oh, vedete che bei nomi! Da serbarceli con tanta cura. Rimasero coi tre dell'innominato e con quel ragazzo allevato alle forche a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Un altro bravaccio dell'innominato che saliva raggiunse poco dopo Don Rodrigo, lo guardò, lo riconobbe e s'accompagnò con lui e gli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello e introdotto, lasciando però il griso alla porta, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, e in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo, e dopo avere alquanto aspettato fu ammesso in quella dove si trovava l'innominato. Questi gli andò incontro, rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine, e ormai quasi involontariamente, a chiunque venisse da lui, per quanto fosse dei più vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi indicavano una forza di corpo e d'animo che sarebbe stata straordinaria in un giovine. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che trovandosi in un impegno difficile dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, s'era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo né invano e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. L'innominato, che ne sapeva già qualcosa ma in confuso, stette a sentire con attenzione e come curioso di simili storie e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni e in parole e dove poteva in opere. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell'impresa, la distanza del luogo, un monastero, la signora. A questo l'innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, e interruppe subitamente dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé, prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò Don Rodrigo dicendo: «Tra poco avrete da me l'avviso di quel che dovrete fare». Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata, sappia ora che costui era uno dei più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse l'innominato. Perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla data. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certuggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere d'un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi e scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in quei primi tempi l'immagine d'un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento d'una vitalità vigorosa riempivano l'animo d'una fiducia spensierata. Ora, all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare, morire, e poi? E cosa notabile, l'immagine della morte, che in un pericolo vicino a fronte di un nemico soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori e con un braccio più pronto. Veniva sola, nasceva di dentro. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento e intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella s'avvicinava. Nei primi tempi gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come d'una specie d'autorità contro la coscienza. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa ma terribile d'un giudizio individuale, d'una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento d'una solitudine tremenda. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora in certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sé: «Io sono però». Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento, ma non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza d'una più cupa ferocia, e con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla. invidiando, già che non poteva annientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere le iniquità senza rimorso, senza altro pensiero che della riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà pronta, superba, imperturbata, per convincere se stesso che era ancora quello. Così, in questa occasione, aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione, ma appena partito costui, sentendo scemare quella fermezza che s'era comandata per promettere, sentendo a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola e l'avrebbero condotto a scomparire in faccia a un amico, a un complice secondario, per troncare a un tratto quel contrasto penoso, chiamò il Nibbio, uno dei più destri e arditi ministri delle sue enormità e quello di cui era solito servirsi per la corrispondenza con Egidio. E con aria risoluta gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse diritto a Monza, informasse Egidio dell'impegno contratto e richiedesse il suo aiuto per adempirlo. Il messo Ribaldo tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse, con la risposta d'Egidio che l'impresa era facile e sicura, gli si mandasse subito una carrozza con due o tre bravi ben travisati e lui prendeva la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa. A quest'annunzio l'innominato, comunque stesse di dentro, diede ordine in fretta al Nibbio stesso che disponesse tutto secondo aveva detto Egidio e andasse con due altri che gli nominò alla spedizione. Se per rendere l'orribile servizio che gli era stato chiesto Egidio avesse dovuto far conto dei soli suoi mezzi ordinari, non avrebbe certamente data così subito una promessa così decisa. Ma in quell'asilo stesso, dove pareva che tutto dovesse essere ostacolo, l'atroce giovine aveva un mezzo noto a lui solo. E ciò che per gli altri sarebbe stata la maggior difficoltà era strumento per lui. Non abbiamo riferito come la sciagurata signora desse una volta retta alle sue parole? E il lettore può avere inteso che quella volta non fu l'ultima, non fu che un primo passo in una strada d'abominazione di sangue. Quella stessa voce che aveva acquistato forza e direi quasi autorità dal delitto le impose ora il sacrificio dell'innocente che aveva in custodia. La proposta riuscì spaventosa a Gertrude. Perder Lucia per un caso impreveduto, senza colpa, le sarebbe parsa una sventura, una punizione amara, e le veniva comandato di provarsene con una scellerata perfidia, di cambiare in un nuovo rimorso un mezzo d'espiazione. La sventurata tentò tutte le strade per esimersi dall'orribile comando, tutte fuorché la sola che era sicura e che le stava pur sempre aperta davanti. Il delitto è un padrone rigido e inflessibile contro cui non divien forte se non chi se ne ribella interamente. A questo Gertrude non voleva risolversi e ubbidì. Era il giorno stabilito, l'ora convenuta s'avvicinava. Gertrude, ritirata con Lucia nel suo parlatorio privato, le faceva più carezze dell'ordinario e Lucia le riceveva e le contraccambiava con tenerezza crescente, come la pecora, tremolando senza timore sotto la mano del padrone che la palpa e la strascina mollemente, si volta a leccar quella mano e non sa che fuori dalla stalla l'aspetta il macellaio a cui il pastore l'ha venduta un momento prima. «Ho bisogno di un gran servizio e voi sola potete farmelo. Ho tanta gente ai miei comandi, ma di cui mi fidi nessuno». Per un affare di grande importanza che vi dirò poi, ho bisogno di parlare subito con quel padre guardiano dei Cappuccini che va condotta qui da me, la mia povera Lucia, ma è anche necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io. Non ho che voi per far segretamente quest'imbasciata. Lucia fu atterrita d'una tale richiesta e con quella sua suggestione, ma senza nascondere una gran maraviglia, addusse subito per disimpegnarsene le ragioni che la signora doveva intendere, che avrebbe dovuto prevedere senza la madre e senza nessuno per una strada solitaria in un paese sconosciuto. Ma Gertrude, ammaestrata a una scuola infernale, mostrò tanta meraviglia anche lei e tanto dispiacere di trovare una tal ritrosia nella persona di cui credeva poter far più conto. Figurò di trovar così vane quelle scuse di giorno chiaro, quattro passi, una strada che Lucia aveva fatta pochi giorni prima e che quand'anche non l'avesse mai veduta a insegnargliela non la poteva sbagliare. Tanto disse che la poverina, commossa e punta un tempo, si lasciò sfuggir di bocca. «Ebbene, cosa devo fare?» «Andate al convento dei Cappuccini», e le descrisse la strada di nuovo. «Fate chiamare il padre guardiano, ditegli da solo a solo che venga da me subito, ma che non dica a nessuno che son io che lo mando a chiamare. Ma cosa dirò alla fattoressa che non m'ha mai vista uscire e mi domanderà dove vo'? Cercate di passare senza essere vista e se non vi riesce, ditele che andate alla chiesa tale dove avete promesso di fare orazione. Nuova difficoltà per la povera giovine, dire una bugia». Ma la signora si mostrò di nuovo così afflitta delle ripulse, le fece parer così brutta cosa l'anteporre un vano scrupolo alla riconoscenza, che Lucia, sbalordita più che convinta e soprattutto commossa più che mai, rispose: «Ebbene, anderò, Dio m'aiuti», e si mosse. Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l'occhio fisso e torbido, la vide metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un sentimento irresistibile, aprì la bocca e disse: «Sentite, Lucia!» Questa si voltò e tornò verso la grata. Ma già un altro pensiero, avvezzo a predominare, aveva vinto di nuovo nella mente sciagurata di Gertrude. Facendo le viste di non essere contenta delle istruzioni già date, spiegò di nuovo a Lucia la strada che doveva tenere e la licenziò dicendo: «Fate ogni cosa come v'ho detto e tornate presto». Lucia partì. Passò inosservata alla porta del chiostro, prese la strada con gli occhi bassi, rasenti al muro, trovò con le indicazioni avute e con le proprie rimembranze la porta del borgo, ne uscì, andò tutta raccolta e un po' tremante per la strada maestra. Arrivò in pochi momenti a quella che conduceva al convento e la riconobbe. Quella strada era ed è tuttora affondata a guisa d'un letto di fiume tra due alte rive orlate di macchie che vi formano sopra una specie di volta. Lucia, entrandovi e vedendola affatto solitaria, sentì crescere la paura e allungava il passo, ma poco dopo si rincorò alquanto nel vedere una carrozza da viaggio ferma e accanto a quella, davanti allo sportello aperto, due viaggiatori che guardavano in qua e in là come incerti della strada. Andando avanti, sentì uno di quei due che diceva: «Ah, ecco una buona giovane che ci insegnerà la strada». E infatti, quando fu arrivata la carrozza, quel medesimo, con un fare più gentile che non fosse l'aspetto, si voltò e disse: «Quella giovine, ci sapreste insegnare la strada di Monza?» «Andando di lì vanno a rovescio», rispondeva la poverina. «Monza è di qua e si voltava per accennar col dito, quando l'altro compagno, era il Nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra. Lucia girò la testa indietro atterrita e cacciò un urlo. Il malandrino la mise per forza nella carrozza. Uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò, per quanto lei si divincolasse e stridesse, a sedere di rimpetto a sé. Un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il Nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza, lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera. L'altro, che le aveva fatto quella domanda traditora, rimasto nella strada, diede un'occhiata in qua e in là per vedere se fosse accorso qualcheduno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno. Saltò su una riva, attaccandosi a un albero della macchia, e disparve. Era costui uno sgherro d'Egidio, era stato, facendo l'indiano, sulla porta del suo padrone per veder quando Lucia usciva dal monastero. L'aveva osservata bene per poterla riconoscere ed era corso per una scorciatoia ad aspettarla al posto convenuto. Paolo Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.